E come preannunciato all'inizio, passeremo dalla frontiera occidentale a quella orientale, quindi da Ventimiglia al Brennero, frontiera estremamente importante soprattutto per gli interessi economici legati al forte traffico di merci e di turisti con la direttrice del nord centro nord Europa. E proprio da Trento dovremo avere in collegamento un compagno che ci aggiornerà un po' su quanto sta accadendo in quella zona. Pronto? Sì, ciao. Ciao, buongiorno. Allora, eccoci qua. Avevamo già parlato nelle precedenti puntate del Brennero, ci aggiorniamo un po' rispetto alla situazione. Se ti va, potremo partire dalla settimana scorsa. Ci sono state le elezioni in Austria, diciamo, con la vittoria dell'ala più di destra, insomma, quindi vediamo poi questo cosa inciderà rispetto alla situazione. Abbiamo visto anche poi riportato sui media italiani una conferenza stampa della polizia austriaca, tutta zimmata in, diciamo, completo abbastanza scuro, diciamo, sembravano un po' dei gendarmi, così, insomma, un po' d'altra epoca, che ci illustravano questi grafici, queste, diciamo, ricostruzioni del muro, del reticolato che doveva essere costruito proprio al Brennero. Quindi da questo elemento di cronaca, se ti va di raccontarci un po' la situazione che proprio realmente si sta verificando lì al Brennero. Sì, io sono in treno, quindi c'è parecchio rumore, spero che mi sentiate. Si sente bene, che... tranquillo. Sì? Sì, vai tranquillo, non ci sono problemi. Va bene, ma io partirei da un'immagine che mi sembra molto eloquente e che certo i giornali non hanno sottolineato, tutt'altro, che è proprio la conferenza stampa di mercoledì, quindi dell'altro ieri, che si è svolta al Brennero, una conferenza stampa fatta dal capo della polizia del Tirolo con altri poliziotti austriaci. E credo che sia veramente emblematico del passaggio storico che stiamo vivendo il fatto che a illustrare il programma di gestione del confine, il termine proprio tecnico della burocrazia austriaca è questo, siano stati dei poliziotti in uniforme, tutti ben pettinati, senza la presenza di alcun politico. Cioè, mi sembra un passaggio da rilevare, nel senso che questi erano lì che parlavano di barriere lunghe 370 metri, altre alte 4, i container a due piani, le recinzioni e come fare i controlli, e i treni, l'autostrada, le corsie, eccetera, e senza nessun riferimento ideologico, no? Come faceva il totalitarismo d'altri tempi. Come se il governo fosse una faccenda meramente di polizia. Questo credo sia piuttosto emblematico, cioè la conferenza stampa con giornalisti di varie parti d'Europa ha fatto il capo della polizia. Questa è una cosa, insomma, da sottolineare. Dietro c'è quello che è successo nel frattempo in Austria, che anche questo va sottolineato, perché è un passaggio altrettanto emblematico, e cioè l'approvazione da parte del Parlamento austriaco di un decreto legge che prevede la sospensione di qualsiasi cosiddetto diritto d'asilo attraverso la decretazione dello stato di emergenza. Nelle varie costituzioni centroeuropee esiste il concetto giuridico di stato d'emergenza, stato d'eccezione, a seconda dei casi, quando si è di fronte a una cosiddetta minaccia imminente per la sicurezza. Il passaggio è stato questo, che il possibile afflusso di immigrati in futuro, stante la chiusura della rotta balcanica, è considerata una minaccia prevista, e se questo dovesse mettere a rischio la cosiddetta sicurezza interna, non passerebbe più nessun immigrato, neanche quei pochi che avrebbero il titolo per fare la richiesta dello status di rifugiati, si schiererebbe l'esercito alla frontiera, appunto per uno stato d'emergenza. Questa è una proposta di legge che ha fatto l'estrema destra, l'FPÖ, ed è passata praticamente all'unanimità con l'astensione, se non ricordo male, di quattro parlamentari della socialdemocrazia. Quindi da un lato sto passaggio politico, dove evidentemente la ricerca del consenso fa sì che le posizioni più nazionaliste vengano assunte da tutti, perché nessuno vuole rinunciare al proprio elettorato, e dall'altra parte il governo, cioè la gestione della frontiera, affidata unicamente alla polizia. Certo, abbiamo visto che lo stato d'emergenza sta diventando sempre più una forma di governo utilizzata proprio in Europa, questo è abbastanza significativo, insomma c'è l'illustre precedente la Francia, poi abbiamo visto anche il dibattito parlamentare in Belgio, insomma, che poi non è stato promulgato nessun stato d'emergenza, ma insomma la grande richiesta era proprio quello di utilizzarlo pure lì, quindi insomma una forma di governo emergenziale che sempre più si afferma come normalità, quotidianità in vari paesi, anche della ricca e insomma socialdemocratica centro Europa. Ma ti volevamo chiedere un po', così per aggiornare i nostri ascoltatori qui che magari non sono aggiornati direttamente rispetto a quanto accade alla frontiera trentina, alta Tesina, poi tecnicamente cosa significa questa barriera, cioè sia a livello fisico sia a livello proprio di controlli, di gestione della frontiera, cosa implica poi questa situazione? Allora, il programma che ha presentato la polizia austriaca alla conferenza stampa di mercoledì prevede la costruzione di una barriera lunga 370 metri, cioè tutto il fondovalle, perché Brennero Paese è uno spazio molto piccolo tra le montagne, alta 4 metri, in alcuni punti 2 metri e mezzo, presidiata giornalmente da 250 poliziotti e, se del caso, con coadiuvati dai militari. Poi la creazione di due corsie autostradali specifiche per i tir e due per le auto, con il limite di velocità dei 30 all'ora. Qualsiasi veicolo sospetto, sia tir che automobile, sia sull'autostrada che sulla statale, verrebbe controllato in apposite aree di sosta, e gli immigrati senza permesso di soggiorno austriaco verrebbero trattenuti in container di due piani, non so se costruiti lì o portati già fatti, e quelli che hanno titolo per diventare richiedenti asilo verrebbero, loro dicono, accolti, trattenuti, detenuti nelle strutture cosiddette di accoglienza nella provincia di Innsbruck, e tutti gli altri respinti in Italia. Questo per un tetto di 80 ingressi giornalieri, non uno di più. Se la situazione dovesse diventare più critica, come afflusso di immigrati, entrerebbe in ballo appunto lo stato d'emergenza. In quel caso non entrerebbe più nessun rifugiato e al confine ci sarebbe l'esercito. Altra cosa che hanno detto è che se lo Stato italiano consente di effettuare controlli di polizia sui treni regionali e sui treni intercity già a partire da Fortezza, diciamo una trentina di chilometri a sud del Brennero, i controlli sarebbero diluiti, quindi meno serrati. Se questo non dovesse essere, e l'Italia sembra che non dia l'autorizzazione, la polizia austriaca controllerebbe a tappeto tutti i passeggeri sui treni da Fortezza, da Brennero, scusate, a Steinbach, che è il paese austriaco dove c'è la fermata dopo la frontiera. Già tenere presente che in realtà i controlli trilaterali, polizia tedesca, polizia austriaca, polizia italiana, esistono già da parecchio tempo sugli OBB, cioè sull'Intercity Monaco-Verona. Quindi questo è il programma di gestione della frontiera. Ci hanno tenuto a sottolineare che non ci sarà spinato, ma una semplice recinzione, che non è un muro, ma è una barriera. Ecco, con questi escamotage la lingua del totalitarismo democratico pensa di mettere a posto le consunte coscienze democratiche. Bene, al di là degli eufemismi, quella che si sta organizzando è una sorta di hotspot, diciamo, ai confini dell'Italia, quindi una zona di identificazione, e la, diciamo, costituzione preventiva di una frontiera che sembra assomigliare a quelle che abbiamo visto ai domeni o in altri, insomma, luoghi di tensione ai confini. Abbiamo fatto una panoramica abbastanza chiara sulla situazione al Brennero, andremo verso la conclusione di questo intervento, però cosa molto importante, invece l'avevamo parlato le scorse settimane di appuntamenti di lotta che sono in preparazione proprio al Brennero, quindi se ti va concludere, diciamo, anche in maniera ampia, chiara, sulla questione degli appuntamenti di lotta che sono previsti per le prossime settimane. Sì, volentieri. Beh, noi da tempo, diciamo almeno da un paio di mesi, stiamo preparando, dando vita ad una mobilitazione contro la chiusura della frontiera, che si chiama Abbattere le frontiere. No, io, quanto mi riguarda, preferirei di no, quindi con un approccio che è chiaro. All'interno di questa mobilitazione ci sembrava un passaggio importante quello di lanciare una manifestazione internazionale al Brennero, manifestazione che ci sarà sabato 7 maggio, contemporaneamente dal lato italiano e dal lato austriaco. È un passaggio all'interno di una lotta, di una giornata importante, però serve un vero e proprio percorso che rovesci non soltanto nella mentalità, nell'etica, nella logica, quanto sostengono le polizie dei vari paesi, ma anche dal punto di vista pratico, nel senso, se il totalitarismo democratico definisce la costruzione di recinzioni, barriere, una mera gestione del confine, l'intento nostro e di tutti i nemici delle frontiere, cioè quella minoranza che non vuole accettare queste cose semplicemente inaccettabili, dovrebbe essere quello di impedire qualsiasi gestione. Ed è con questo spirito che lanciamo, che stiamo preparando con tanti incontri pubblici la manifestazione del 7 maggio, sapendo che una partita di questo tipo, che ha una portata universale, internazionale, perché oggi veramente il filo spianato è l'emblema del nostro presente che sta stritolando la vita di centinaia di migliaia di persone, non si vince con una manifestazione, con una giornata, però quello che vorremmo è che si passi un movimento di quella minoranza che non accetta, ripeto, che deve avere lo scopo chiaro, dichiarato, preciso, di impedire tutto questo, di fargli saltare questa gestione poliziesca delle nostre vite e dei confini. Bene, noi ci associamo a questi propositi. Ovviamente invitiamo poi tutti gli ascoltatori, chiunque volesse recarsi, anche se è un viaggio lungo, al 7 maggio, insomma, di raggiungere le località del Brennero. E in chiusura ti chiederei di farci quest'ultimo piacere di rilanciare gli estremi sia del blog e sia gli appuntamenti per chi volesse partecipare all'iniziativa. Sì, allora abbiamo aperto un blog che si chiama abbatterelefrontiere.blogspot.it, dove trovate aggiornamenti, gli appelli in più lingue, anche un pieghevole di riflessione tradotto in più lingue. Noi abbiamo lanciato come appuntamento per andare collettivamente al Brennero un appuntamento davanti alla stazione dei treni di Trento, in Piazza Dante, alle 11 del sabato. E questo sia perché per chi pensa di venire in treno, sia per chi ha i mezzi propri, perché è importante, insomma, per chi ha voglia, per chi riesce, organizzarsi per andare su tutti assieme, perché le dichiarazioni della questura di Bolzano sono abbastanza esplicite. Quel corteo lì non è autorizzato, nessuno tra l'altro gliel'ha chiesto, e quindi faranno in modo di renderlo quanto più difficile possibile. Questo a testimonianza del fatto che da un lato le dichiarazioni delle autorità italiane contro la politica dei muri, dall'altra c'è una collaborazione di fatto da tempo tra le polizie e non solo di tutti i paesi, e l'unica cosa che li preoccupa è il transito di 40 milioni di tonnellate di merci all'anno al Brennero. Di sicuro non è la vita degli immigrati da parte di gente che ha già dato 6 miliardi a quel boia di Erdogan che sta sparando sugli immigrati, e quindi bisogna prepararsi ad una giornata di lotta. Quindi l'appuntamento per chi riesce ad arrivare prima, non andare direttamente su, è per le 11 davanti alla stazione dei treni di Trento. Bene, allora un abbraccio a tutti i compagni del Trentino e anche un incoraggiamento rispetto a questa iniziativa. Noi ci terremo aggiornati e rilanciamo poi l'appuntamento rispetto a un bilancio, quindi cercheremo poi di aggiornare anche gli ascoltatori rispetto agli esiti di questa giornata. E niente, un saluto e quindi a presto, risentirci. Un saluto a voi e grazie. Bene, grazie, a presto.